2024. Vincitore dello European Podcast Award, il premio ai migliori podcast europei. Di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi la puntata del 9 novembre 2013. Benvenuti o bentornati a 2024. Questo è il programma di Radio 24 dedicato alla tecnologia. Ogni settimana cerchiamo di farci raccontare dai nostri esperti, dai nostri ospiti, come la tecnologia ci cambia la vita, o come cambia il modo di lavorare, come cambia la competitività di una nazione o di un'azienda. Potete comunicare con noi attraverso la nostra posta elettronica 2024@radio24.it, attraverso Facebook. Noto che sono sempre più le persone che utilizzano Facebook rispetto alla posta elettronica. Sbagliato, anche perché la posta elettronica è uno standard. Facebook è Facebook proprietario e quindi affidare le nostre comunicazioni a una società è sbagliato. Io fossi la pubblica amministrazione, ad esempio, non utilizzerei Facebook. Poi su questo possiamo innescare un dibattito accesissimo, perché ci sono i sostenitori del fatto che se la gente è su Facebook bisogna utilizzare Facebook, ma non è mica detto. Parleremo magari anche di questo. Allora vi avviso subito che nella puntata di oggi non c'è un ingrediente che avevamo annunciato la settimana scorsa. Avevamo annunciato un capitolo dedicato alla sicurezza. Visto tutto quello che sta succedendo in giro per il mondo, abbiamo detto, beh, smettiamo di descrivere quello che ha fatto, sta facendo e probabilmente farà ancora la National Security Agency americana e tutta l'intelligence americana, ma aggiungo io, tutta l'intelligence del mondo fa quello che noi abbiamo letto in queste ultime settimane o sentito in queste ultime settimane, quindi non solo gli Stati Uniti. Dicevo, smettiamola di raccontare questo perché più o meno abbiamo capito che cosa sta succedendo. Cerchiamo di capire come difenderci, e questo è uno dei temi che vi proporremo la prossima settimana, ma l'ospite che avevamo individuato non era disponibile questa settimana, quindi rimandiamo ad una delle prossime settimane, anche con altri ospiti naturalmente. Iniziamo parlando di una superstrada. Allora, la E45 Orte Cesena, che verrà trasformata in autostrada e prolungata fino a Mestre con la trasformazione della Romea tra Cesena e Mestre. Quindi ci sarà una nuova autostrada che collegherà Orte vicino a Roma con Mestre. Allora, il CIPE, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ha approvato il progetto, un progetto, pensate, che vale 9,8 miliardi di euro. Questo investimento dovrebbe essere fatto da un privato, quindi bisognerà trovare un privato che investe questa cifra in questo momento economico, e il contributo dello Stato è invece sostituito da un meccanismo sicuramente molto interessante di defiscalizzazione. Lo Stato non mette soldi, ma fa lo sconto sulle tasse a chi costruisce l'opera. Meccanismo assolutamente interessante e sicuramente da ripetere, ma non è su questo che vogliamo attirare la vostra attenzione. Abbiamo parlato di un'opera, noi non parliamo spesso di autostrade, anzi non è proprio il nostro compito parlare di autostrade, ma con 10 miliardi, facciamo notare, molti esperti fanno notare, si costruisce una buona parte di una rete in fibra ottica che entra nelle case di tutti gli italiani, di tutti gli uffici, di tutte le fabbriche, di tutti i capannoni. Ci sono oramai parecchi studi che mettono in relazione la diffusione della banda larga di capacità che solo la fibra ottica nei prossimi anni potrà garantire e lo sviluppo economico di un paese, la competitività delle imprese e di tutto il sistema paese. Quindi con 10 miliardi si fa buona parte di questa rete, cioè che dice che ne servono 15, e probabilmente se si fa un censimento della fibra che già esiste, che è stata stesa negli anni scorsi, beh, si scopre che probabilmente 15 miliardi spalmati in alcuni anni sono sufficienti per costruire questa rete. È una questione di priorità. Ci sono paesi che stanno fortemente investendo in fibra ottica e naturalmente sono, guarda caso, i paesi che nella classifica della competitività sono ai primi posti, e ci sono paesi che invece pensano che sia più utile investire in strade o autostrade. Visto che i soldi non ci sono per tutto, è, come dicevo, una questione di priorità. e forse bisogna anche cominciare a cambiare le nostre priorità e investire su una infrastruttura che serve a tutti, alla pubblica amministrazione, alle imprese, ai cittadini. Si potrebbe fare una valutazione su quanto può essere utile un'autostrada che collega Orte con Mestre e invece quanto può essere utile una rete in fibra ottica capillare come quella che si può fare con 10 miliardi di euro. Allora, parleremo tra poco di diffusione di progetti per diffondere la banda larga in Italia. Adesso iniziamo con alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Iniziamo da una notizia che arriva dalla cosiddetta parte nera del web, darknet, potremmo dire somewhere on the net. Però sarebbe di nuovo online Silk Road, il sito anonimo dove si vendono armi, droga e tutta una serie di cose illegali. Un sito che era stato chiuso il mese scorso dall'FBI, era stato anche arrestato il presunto gestore e proprietario che, pensate, in 2 anni aveva accumulato oltre $1 miliardo. Perché il modello di business di questo sito funzionava più o meno così. Tutti potevano vendere di tutto e il sito si prendeva una percentuale sul venduto. Cosa che funziona naturalmente in molti siti legali. Il sito web si trova, come dicevamo, in quella parte della rete internet chiamata Darknet. Ci sono necessari software particolari per accedere a quella rete internet. Noi usiamo il web, il www, World Wide Web, ma si tratta solo di una porzione della rete internet. Molti altri servizi transitano sempre su internet, ma in altre porzioni rispetto al web. Digital News. A proposito di mondi paralleli, c'è stato un mega furto di bitcoins. I bitcoins sono la moneta virtuale e alternativa più nota al mondo. Esiste un algoritmo piuttosto complesso, tra l'altro non si sa chi lo ha creato. Un algoritmo per creare i bitcoin e sempre questo algoritmo gestisce tutto l'ammontare della moneta in giro per il mondo. Possono essere anche coniati con delle macchine, ci sono tra l'altro delle schede apposta per computer che servono per coniare i bitcoin. Allora, a proposito di questo furto, un sito australiano che offre un servizio di archiviazione dei propri bitcoin, quindi una sorta di banca dei bitcoin, ha denunciato di avere subito un furto informatico di 4.100 bitcoins che, tradotto in dollari australiani, valgono circa 1 milione, quindi insomma una cifra di tutto rispetto. Il problema è che è impossibile tracciare i bitcoin ed è anche per questo motivo che i bitcoins vengono spesso utilizzati per acquisti di cose illegali sulla rete internet. Digital News. 16 siti internet che commercializzavano online 400.000 prodotti contraffatti di noti marchi di abbigliamento e anche accessori sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bergamo. Per poter bloccare questi siti, pensate che il decreto di sequestro è stato notificato ad oltre 150 internet service providers italiani che devono a questo punto inibire l'accesso a questi 16 siti internet, ma il problema, ma è un problema di carattere tecnico di come è stata creata la rete internet, è che questi vincoli, questo filtro, questo blocco può essere facilmente aggirato cambiando naturalmente i DNS. Chi lo sa fare, chi non lo sa, lo può imparare molto facilmente. C'è molto dibattito sulla proposta dell'Agicom per regolare il diritto d'autore online. Molte sono le critiche al possibile provvedimento che attribuirebbe all'autorità poteri simili a quelli della magistratura, permettendo di obbligare ai provider di agire contro la pirateria. Però si discute anche di un possibile emendamento da inserire nella legge di stabilità, dove è scritto che l'authority è legittimata ad agire come autorità giudiziaria. Quindi io mi rivolgo all'autorità perché magari penso e ritengo che sia stato violato un diritto d'autore di cui io sono titolare e l'autorità agisce come l'autorità giudiziaria, magari obbligando un provider a togliere quel contenuto. Allora, quest'ultima cosa, cioè di inserire questo provvedimento all'interno della legge di stabilità, è scandalosa, perché per l'ennesima volta questo non è un argomento da legge di stabilità e quindi si utilizza uno strumento che è destinato ad altro. Ma in generale le critiche sono condivisibili, ma un po' in tutto il mondo questa è la critica sostanziale a provvedimenti di questo genere, perché interventi contro la libertà possono essere adottati solo da un magistrato e non da un'autorità indipendente. Si torna a parlare di TV via internet in attesa dell'arrivo del nuovo servizio di video on demand di Mediaset, che si chiama Infinity, che debutterà il 9 dicembre. Gli altri operatori stanno studiando il mercato. Allora, Telecom Italia e Sky hanno firmato un accordo per studiare la fattibilità di una piattaforma IPTV su cui distribuire l'offerta di Sky. Naturalmente stiamo parlando di distribuzione via internet attraverso le infrastrutture di Telecom Italia. Adesso parliamo di banda larga, soprattutto dei piani di diffusione dei servizi in banda larga in Italia. Questo è un argomento che ci sta molto a cuore, ma da un po' di tempo non ne parliamo, anche perché effettivamente non c'erano grandi notizie, purtroppo. Questo è un argomento che raccoglie e coinvolge aspetti industriali, ma anche aspetti politici, in un mix molto complesso. Ci sono spesso dibattiti su questo, ma devo dire che poi si ripetono spesso le stesse cose. Ma questa settimana c'è una notizia, perché è stato presentato il piano industriale di Telecom Italia che prevede anche un'accelerazione dei piani di diffusione della banda larga secondo progetti, tecnologie e idee di Telecom Italia, che non necessariamente coincidono con le idee di altri operatori o di altri esperti, ma questo è un aspetto molto importante, perché Telecom Italia è ancora oggi il principale operatore, l'operatore più grande nel nostro paese, e le scelte di Telecom Italia naturalmente influenzano tutto il resto. Allora, cerchiamo di capire che cosa ha presentato e che cosa farà Telecom Italia nei prossimi anni e che cosa sta succedendo anche all'atere, quindi attorno a Telecom Italia, perché ci sono altri progetti, ci sono altre possibilità, e anche esiste un ruolo dello Stato, della pubblica amministrazione, nelle zone cosiddette a fallimento di mercato, dove gli operatori non hanno interessi perché non c'è molto business, ma che hanno un diritto, che non è scritto da nessuna parte, ma lo si dice spesso, ad avere una connettività almeno di base. Ma dice l'Unione Europea che da una base che è di pochi megabits dovrebbe essere portata ad alcune decine di megabits. Saluto Cristoforo Morandini, che è il responsabile dell'osservatorio banda larga di Between. Bentornato a 2024, grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo proprio dalle novità che sono state presentate da Telecom Italia. Che cosa farà nei prossimi anni Telecom Italia a proposito di banda larga e di banda ultra larga? Poi magari definiamo anche qual è la differenza tra l'una e l'altra. Certo, in effetti c'era molta attesa per il nuovo piano triennale di Telecom Italia, dopo le ormai note vicende con Telefonica, che si appresta a prendere controllo, e l'uscita che c'è stata del presidente Bernabé. Le novità ci sono state, e oltre alle cessioni, esternalizzazioni, nuove risorse, nonché l'accordo con Sky, il fatto probabilmente più rilevante per il paese è appunto l'accelerazione degli investimenti per le nuove reti, sia per la rete fissa che la rete mobile, quindi le reti di nuova generazione. Per darvi un'idea, su un totale di 9 miliardi di investimenti previsti per i prossimi 3 anni, oltre un terzo, circa 3 miliardi e mezzo, verrà destinata a queste nuove reti a banda ultralarga e ai data center di ultima generazione. Dietro tutto questo c'è il tema del cloud e dei nuovi servizi in rete. Rispetto al precedente piano, può essere utile ricordare come il precedente piano prevedeva solamente 1,5 miliardi per un triennio. Quindi, di fatto, cosa succede? Che all'orizzonte 2016 dovremo avere una copertura della popolazione pari a 50% per le reti fisse, quindi quelle che arrivano dentro le case, i collegamenti in fibra ottica, e una copertura addirittura dell'80% per quanto riguarda le reti di nuova generazione mobile, l'LTE di cui si è parlato in questo ultimo anno, il che significa complessivamente oltre 10 punti percentuali di incremento rispetto al piano precedente. Però c'è anche una parte del bicchiere che rimane mezza vuota, perché se guardiamo all'estero ci accorgiamo come già oggi, nel 2013, la media di copertura della banda ultralarga in Europa è del 50%, mentre noi ci poniamo l'obiettivo al 2016. E poi un tema non marginale è che una parte di questi investimenti in realtà sono di provenienza pubblica, perché ci sono dei bandi pubblici già attivi e altri ne sono previsti, che contribuiranno a finanziare questi nuovi investimenti. Sì, poi magari parliamo di che cosa sta facendo la pubblica amministrazione, lo Stato, ma lo facciamo tra un minuto. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24. 2024. Stiamo parlando dei piani di diffusione della banda larga in Italia. Questo è 2024, potete seguirci anche attraverso Twitter, potete cercare Enrico Pagliarini oppure l'account di 2024. Questo è un modo per comunicare con noi. Dicevo, stiamo parlando dei piani di diffusione della banda larga in Italia e stiamo commentando il piano industriale presentato da Telecom, almeno nel segmento relativo alla diffusione della banda larga. Allora, una cosa, ci sono alcuni punti che possono essere detti a commento di quello che già Cristoforo Morandini, che è il responsabile dell'osservatorio banda larga di Between, una società che si occupa di telecomunicazioni, alcune cose possono essere dette. Beh, prima di tutto c'è una evidente domanda di connettività da parte dei consumatori, quindi Telecom Italia ha deciso di accelerare questi investimenti perché gli italiani chiedono sempre più banda e quindi c'è un mercato molto interessante. Un'altra cosa che va detta, giusto per spiegare che cosa sta facendo Telecom Italia, l'abbiamo detto in altre puntate di 2024, si parla spesso di fibra ottica e si dice spesso che la fibra ottica dovrebbe arrivare direttamente nelle case degli italiani, il famoso fiber to the home, fiber to the building, quindi fino al palazzo, alla casa. Beh, in questo caso la scelta di Telecom Italia non è così radicale e alcuni dicono così lungimirante, ma del resto il debito costringe a fare investimenti con molta attenzione. Il piano e il progetto di Telecom Italia prevede di far arrivare la fibra ottica fino all'armadio di strada, al cabinet. Infatti si dice fiber to the cabinet. È un modello ibrido, un modello che sicuramente nel medio periodo può fornire una connettività così come richiesta dal mercato, perché diciamo che nei prossimi anni, oggi si parla di velocità tra i 30 e i 50 megabits, nei prossimi anni con questa tecnologia, con questa modalità si potrà andare a 100 megabits, quindi diciamo nel medio periodo si può coprire una domanda, ma nel periodo un po' più lungo bisognerà fare sicuramente la fibra ottica fino alle case. E c'è chi dice, beh, perché non la facciamo subito? Chi la fa? Punto di domanda, ma a cui diamo risposta magari anche nelle prossime puntate. Cristoforo, a proposito di domanda, questo piano conferma che esiste una domanda del mercato? Sì, allora fino, ma anche solamente 12-18 mesi fa, c'erano i grossi dubbi sul reale interesse da parte degli italiani verso questi servizi ad altissima velocità. Oggi questo è un tema che è stato superato e ci stiamo convincendo che anche in Italia possa accadere quello che accade negli altri paesi. Poi per quanto riguarda la scelta tecnologica che è stata fatta garantisce di superare quelli che sono i livelli attuali, quindi di entrare nel mondo di quello che a livello internazionale viene chiamato banda ultralarga, che è una velocità di trasferimento delle informazioni superiore a 30 megabit al secondo. Questo lo si può fare con la soluzione ibrida che tu hai descritto. Non è il massimo di quello che si può ottenere, ma è un ingresso nel mondo della banda ultralarga. Sì. Prima di parlare di quello che sta facendo lo Stato, quindi che cosa sta facendo la pubblica amministrazione per tappare qualche buco di qua e di là lungo il paese, a proposito di banda larga, che cosa stanno facendo gli altri operatori? Perché a proposito di altri operatori, il primo nome che viene alla mente è Metroweb, che gestisce la rete in fibra ottica di Milano e ha fatto un accordo, però per il momento si tratta solo di Milano e forse un paio di altre città, ma questo lo chiedo a te, sulla fibra ottica e per far sì che i servizi in fibra ottica, in questo caso sì, fino alla casa, fino all'appartamento, la cosiddetta fiber to the home, possano venire offerti da Vodafone, che ha già un'offerta per alcune zone di Milano e anche in prospettiva per Wind. Ecco, partendo da Metroweb, ma poi cercando di capire anche gli altri operatori, che cosa stanno facendo gli alternativi a Telecom? Sì, qui non ci sono particolari novità, perché al di là del piano di Metroweb che prevedeva di portare il modello Milano in altre circa 30 città, quindi complessivamente 30 città, alla luce degli sviluppi dei piani di Telecom e Fastweb, Metroweb ha deciso di procedere con cautela, quindi completa Milano e poi ci sono degli studi di fattibilità, il quadro è piuttosto incerto, perché gli altri hanno deciso di investire appunto su sia Telecom che Fastweb sulla soluzione ibrida che tu descrivevi. E quindi siccome quelli è una soluzione che costa di meno ma è molto più veloce da dispiegare, in quelle città comunque Fastweb e Telecom farebbero più in fretta. Quindi lato Metroweb avanti con cautela. Lato Fastweb entro fine anno arriveranno a 14 città per circa 3 milioni e mezzo di potenziali collegamenti. Attenzione, vuol dire che c'è la predisposizione, ma non, i clienti non migrano di colpo, no, sulla nuova rete, è un processo più lungo. Invece sul mobile, anche qui Telecom è più avanti rispetto agli altri come copertura della banda ultralarga mobile, però gli altri stanno scaldando i motori e hanno lanciato una rincorsa a Telecom Italia, quindi a cominciare da Vodafone H3G e Wind, stanno cominciando anche loro il dispiegamento delle reti mobili di nuova generazione. Sì, quindi il famoso 4G. In effetti io ho informazioni che molti operatori che gestiscono dorsali in fibra ottica sono stati già da un po' di tempo comunque contattati dagli operatori mobili che dicono: io devo portare sotto le antenne di telefonia mobile molta capacità, qua stiamo parlando non di megabit ma di gigabit in alcune aree, per poi diffondere appunto il 4G sul territorio. Arriviamo a quello che fa lo Stato. Ci sono alcuni bandi di cui ogni tanto si sente parlare. Per far cosa, Cristoforo? Sì, allora qui diciamo che la situazione è paradossalmente forse tra le più dinamiche, perché a seguito della vicenda telefonica si sono sbilanciati un po' tutti, ve ne sarete accorti, no? I vecchi leader, i leader attuali, anche quelli futuri, non ultimo ieri sera da Santoro, tutti sono espressi sull'importanza del digitale, delle reti nuova generazione, la separazione della rete di Telecom, che è un tema che piace molto, e quindi in questo momento innanzitutto il governo ha confermato tre cose. La prima è il vecchio progetto per dare la banda larga a 2 megabit. Prima parlavamo di decine di megabit verso le centinaia, diciamo la banda larga di base a tutti entro l'anno prossimo, e questo è un progetto che verrà portato a termine. Poi lo stesso Letta ha annunciato che circa il 10% dei fondi strutturali che aspettiamo dall'Europa per il piano 2014-2020, che sono circa 35 miliardi, cioè il 10%, quindi 3 miliardi e mezzo, verranno dedicati ai nuovi investimenti sulla banda larga. In realtà lui intendeva la banda ultralarga, ma ha detto banda larga. Quindi questo è positivo. E poi vengono invece i piani che tu citavi, che sono l'inizio degli investimenti pubblici, ma soprattutto nel mezzogiorno e nelle città fallimento di mercato, che sono quelle città dove gli operatori si sono dichiarati non interessati. Sono partiti già 3 bandi nel mezzogiorno, che complessivamente per poco meno di 200 milioni, e ne partiranno altri in Sicilia e in Calabria per complessivamente 380 milioni. Ecco, i primi 3 che sono stati banditi però stanno facendo emergere anche qui qualche elemento di criticità, perché nonostante un finanziamento a fondo perduto del 70% in queste città, le richieste ad oggi, a quanto mi risulta, sono molto poche, quindi dei primi 3 bandi probabilmente uno andrà deserto e comunque nella migliore delle ipotesi si presenta un unico candidato. Che è Telecom? che probabilmente, adesso non abbiamo ancora l'annuncio ufficiale, ma probabilmente è Telecom Italia, sì. Sì, quindi diciamo non c'è molto entusiasmo. Non c'è particolare entusiasmo. Perché questi bandi prevedono, cioè lo Stato mette a disposizione denaro in zone dove gli operatori spontaneamente non andrebbero perché non c'è grande business e la rete la devono fare questi operatori. Esattamente, e poi però devono garantire che questa rete venga messa a disposizione anche da operatori concorrenti, quindi in un meccanismo che assomiglia a quello che è già in vigore sulla rete tradizionale. Certo, e quindi questo non piace troppo all'operatore. Non è tanto, il meccanismo è abbastanza scontato, il problema è che le specifiche di gara sono tali da porre molti vincoli per quanto riguarda il tipo di infrastruttura, le tecnologie utilizzate, e quindi è un'operazione molto costosa che non necessariamente è quella che farebbe spontaneamente sì. Un operatore. Certo, vedremo insomma quale sarà il risultato di questi bandi, però vi abbiamo ricordato che appunto c'è questo lavoro che si sta procedendo verso questa direzione, in questo caso per portare banda ultra larga, quindi stiamo parlando di qualche decina di megabit, giusto? Sì. Il tema, uno dei vincoli di questi bandi è che la predisposizione consenta di andare anche oltre, quindi deve essere un investimento puramente infrastrutturale che consenta di non avere vincoli ad andare anche a 100 e oltre, perché sono bandi per la realizzazione essenzialmente di infrastrutture civili, quindi è una predisposizione che deve poi consentire di dare servizi. Poi non dimentichiamoci che sullo sfondo, no, ciclicamente ricompare la cassa depositi e prestiti, no? Ah, sì, sì. Quando non sappiamo chi può essere il cavaliere bianco, compaiono loro. E quindi la cassa depositi e prestiti continua a confermare che è pronta a giocare un ruolo, ma se veramente gradito dai soggetti in campo, e però sul come, quando… Nulla c'è ancora si sa. Un po' di confusione. Sì, tu hai aperto un altro grande tema, perché naturalmente il ruolo della Cassa Depositi e Prestiti potrebbe essere un ruolo in caso venga fatta un'operazione di scorporo della rete Telecom o comunque della creazione di una società che si occupi della rete nazionale, insomma un processo sicuramente molto complesso, molto lungo, non solo complesso dal punto di vista politico ma anche dal punto di vista industriale. Sicuramente esiste un tema, e il fatto che queste gare vadano, se non proprio deserte, quasi deserte, il tema è qual è e quale dovrebbe essere il ruolo dello Stato, e anche qui ci sono tante posizioni. In tutto questo scenario c'è qualche segnale di luce, diciamo, che sta alla periferia, che magari potrebbe emergere come interessante, o tutto tace? Ma anche qui, diciamo, lo Stato si è risvegliato e c'è le posizioni si sprecano, ma anche dal territorio c'è una spinta che viene dal basso, quasi un movimento fibra che nasce da alcuni sindaci o da imprese di zone industriali che stanno addirittura valutando se non autofinanziare interventi mirati in zone specifiche. Abbiamo degli esempi, per esempio in Toscana, un'iniziativa dell'ANCI, piuttosto che un altro progetto, comunque un movimento di sindaci del Veronese lungo l'Alto Brennero, che stanno cercando di stimolare l'estensione di reti fibrottiche in alcune zone industriali. E altre segnalazioni ci stanno arrivando dall'Emilia-Romagna e da altre regioni. Grazie a Cristoforo Morandini per essere stato con noi, per averci tracciato questo quadro che, seppur in lento movimento, ma insomma qualche cosa succede. Grazie, a presto, buon lavoro. Grazie a tutti, arrivederci. Noi ci fermiamo e riprendiamo tra poco. 2024. Disponibile anche in podcast su radio24.it. 2024. La seconda parte di 2024, vi ricordo che potete abbonarvi gratuitamente al servizio podcast per ascoltare settimana dopo settimana il file MP3 della nostra trasmissione. È possibile ascoltarlo anche in streaming online, ma naturalmente se vi abbonate potete scaricare questo file, alcune decine di mega, circa 50-60 mega ogni settimana, e potete portarvelo tranquillamente dove volete. Quindi se non avete un piano dati che potete utilizzare con tranquillità in mobilità, sicuramente scaricare il file piuttosto che ascoltarlo in streaming ha ancora alcuni vantaggi. Partiamo in questa seconda parte da un dato che è stato diffuso in settimana da una società di ricerche inglese conosciuta dagli addetti ai lavori ma sconosciuta ai più, si chiama Kantar, che ha aggiornato i dati di vendite, e quindi diciamo è un lavoro che viene fatto con una certa regolarità, ma c'è un dato sicuramente interessante, perché l'accoppiata Nokia-Microsoft, sapete che Nokia nella linea di smartphone Lumia utilizza Windows Phone, allora diciamo l'accoppiata Windows Phone Nokia, che in tutto il mondo non ha quote di mercato paragonabili a quelle di iPhone e men che meno di Android, beh, in Italia ha superato come quota di mercato, quindi come pezzi venduti, Apple e quindi gli iPhone. Allora, secondo Kantar, Nokia ha una quota di mercato del 13,7% contro il 10,2% di Apple. Android ha una quota del 71,6%, BlackBerry è sceso al 2,1%. Allora, per capire, al di là di questo dato, che cosa sta succedendo nel mercato italiano, è con noi Enrico Pappolla, che è il direttore di Tech Data Mobile Italia, che è il principale distributore di terminali mobili nel nostro paese. Benvenuto a 2024. Buonasera a tutti, grazie. Confermate questi dati o addirittura correggete il tiro rispetto a queste percentuali che sono state pubblicate questa settimana? No, direi che sostanzialmente confermiamo questi risultati che, se da un lato possono sorprendere, dall'altro potevano essere abbastanza prevedibili in considerazione di due, diciamo, eventi che si sono verificati in questi ultimi mesi, in questi ultimi due quarter. Il primo è sicuramente legato al fatto che per quanto riguarda Nokia, che è equipaggiata con dispositivi Windows Phone, la strategia dell'azienda finlandese, oggi americana, è stata quella di concentrarsi maggiormente su prodotti smartphone di fascia bassa, quindi con prodotti che hanno un prezzo di vendita al pubblico compreso tra i 150 e i 200 euro, quindi andando ad aggredire una fascia di mercato molto più appetibile di quella che si colloca invece in una fascia più alta presidiata da Apple e da Samsung, e questo ha immediatamente dato dei risultati in termini di volumi, quindi proiettando i volumi di vendita di Nokia in Italia verso una direzione completamente opposta rispetto a quello che era successo nei mesi passati e negli anni passati. Quindi possiamo dire che è un dato che, almeno a voi addetti ai lavori, non sorprende più di tanto? Direi di no, e aggiungo anche come secondo aspetto non trascurabile che solo oggi, cioè da qualche giorno, Apple ha introdotto sul mercato i nuovi iPhone, e quindi ci attendiamo comunque che nelle prossime settimane questi valori possono essere sicuramente rivisti. Quindi l'unione di queste due situazioni hanno portato a questo tipo di risultato. Va evidenziato anche che è chiaro che Nokia, rispetto a un 2012 di un certo tipo, ha cambiato un po' marcia, e sarà molto interessante anche vedere quali saranno le conseguenze ulteriori dopo l'acquisizione da parte di Microsoft della stessa Nokia. Io credo che questo comporterà sicuramente da parte del colosso di Redmond un impegno e un investimento maggiore nel settore mobile. Sì, vedremo anche se nella parte Lumia, cioè gli smartphone Nokia, oggi si chiamano Lumia, visto che Microsoft ha preso i diritti su questo marchio e potrà appunto utilizzarlo, e c'è chi dice che non verrà più utilizzato il marchio Nokia, questo potrebbe anche rappresentare un problema, perché mi confermi, Enrico, che ad esempio in Italia il marchio Nokia è ancora molto forte? Assolutamente sì, io credo che nella testa degli italiani i brand che vengono ricondotti alla telefonia, un po' alla storia della telefonia, sono sostanzialmente tre: Nokia, Motorola e Ericsson. E di conseguenza Nokia in primis è quella che ancora dà un valore di un certo tipo a questo marchio. Beh, personalmente è un'opinione personale, non ho nessuna informazione ovviamente su questo, non ritengo possibile, almeno nel medio breve periodo, che ci siano cambi di rotta, cioè rinunciare al marchio Nokia oggi sinceramente sarebbe una scelta che mi lascia molto perplesso, e non solo in Italia. Aggiungo anche che la stessa cosa sta facendo Motorola, o meglio sta facendo Google nei confronti del brand Motorola, che sembrava messo in naftalina, mentre invece probabilmente non è così, perché il lancio di questi giorni anche di Motorola, un rilancio di Motorola, sta a significare che i brand storici comunque hanno un peso nel mercato ancora notevole, e non solo in Italia. Sì, infatti Motorola presenterà la prossima settimana un telefono proprio in questa fascia, medio-bassa, quindi Nokia con questa strategia di fare prodotti buoni, molto buoni, quindi un buon prodotto con un sistema operativo che funziona molto bene, semplice, e molti dicono addirittura più semplice di Android, sta pagando. Questa quota di mercato è stata rubata fondamentalmente a prodotti Android? Ma io credo che questa quota di mercato sia, diciamo che Android, essendo il sistema operativo prevalente, è quello che generalmente viene eroso in queste situazioni. E sicuramente nel caso di Nokia questo è quello che si è verificato. Diciamo che poi vi sono anche degli altri vendor che hanno avuto delle flessioni consistenti, che hanno preso in alcuni casi anche direzioni di non ritorno, a mio giudizio, tipo BlackBerry, e anche su questo tema io credo che Nokia possa, o meglio Windows Phone in questo caso, possa essere una alternativa ai BlackBerry, specialmente nel mondo enterprise, laddove sicuramente avere un sistema operativo che riesce a entrare in simbiosi con quella che è la parte, diciamo, IT, hardware delle aziende, non è cosa da poco. Questo sta già accadendo? Sì, da quello che vediamo noi sta già accadendo, vedo che la notizia è abbastanza di dominio pubblico, ci sono diverse diciamo così, documentazioni facilmente reperibili in cui vi sono grandi aziende a livello, diciamo, internazionale, italiano, europeo, che si stanno già spostando verso questo tipo di direzione. È ovvio che si cerca un'alternativa nel clima di incertezza che si è creato intorno a BlackBerry. Certo, noi adesso abbiamo parlato di quote di mercato, quindi abbiamo ragionato in termini di volumi, quindi di numero di smartphone venduti. Se parliamo di valore, tutt'altra storia. Beh, direi proprio di sì, non vi è dubbio, come dicevo in apertura, Apple e poi subito dopo Samsung presidiano sicuramente la fascia medio e medio-alta e alta del mercato, per cui se dovessimo andare ad analizzarla in termini di valore, credo che il divario sia assolutamente marcato e evidente. Sì. Questo non credo vi siano nessun altro tipo di considerazione da fare. L'arrivo di prodotti Android a basso costo cinesi è già un fenomeno che rappresenta una quota di mercato rilevante? Abbiamo visto ad esempio che a livello mondiale Huawei sta facendo dei numeri interessanti, ma c'è una fila e una lunga lista di produttori cinesi, molti sono anche sconosciuti, che fanno prodotti non eccezionali, ma che costano sicuramente poco. Vale qualcosa o ancora un fenomeno inesistente? Ma personalmente noi vediamo il fenomeno Huawei in Italia direttamente, quindi posso confermare questo dato. Quello che vi disse anche qualche mese fa, di tenere d'occhio questi vendor. Probabilmente ci sarà una netta selezione nei prossimi mesi tra chi è affidabile e chi è meno affidabile. Però è chiaro che per alcuni di questi vendor, e tra cui anche Huawei, il ruolo del mercato anche nel prossimo anno e nei prossimi anni secondo me sarà abbastanza evidente, e anche in questo caso sicuramente si tratterà di andare a erodere una parte di quello che è la quota di mercato di Android tenuta, presa in mano, gestita da altri vendor che oggi hanno ruoli più rilevanti. Diciamo che la forza di questi vendor è quella di offrire dei prodotti in un rapporto qualità-prezzo molto buono e di conseguenza essere appetibili in quei mercati come quello italiano dove cosiddetto open channel, quindi la parte non presidiata dall'operatore, quindi non presidiata da abbonamenti, quindi da acquisto di abbonamento. L'acquisto del telefono direttamente in negozio. Acquisto del telefono direttamente in negozio, è chiaro che su queste fasce di prezzo avranno un ruolo sicuramente di primo piano. Certo, mentre i telefoni, quelli che costano un sacco di soldi, prevalentemente vengono venduti tramite l'operatore. Sì, poi ci sono delle eccezioni che secondo me riguardano ad esempio il mondo Apple, dove invece secondo me l'utente, anzi secondo me, secondo i dati di mercato, l'utente iPhone è un utente molto diverso rispetto ad altri ed è disposto anche a spendere tanti soldi per acquistare uno smartphone. Grazie ad Enrico Pappolla, direttore di Tech Data Mobile Italia, a presto e buon lavoro. Grazie a tutti, buon lavoro. Questo è 2024, siete all'ascolto di Radio 24, ci fermiamo, ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade, riprendiamo tra un minuto. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. In questi ultimi giorni della settimana si è tenuto a Milano l'appuntamento annuale di Mind the Bridge, che è una fondazione che mette in connessione l'Italia con gli Stati Uniti, ma in modo particolare con la Silicon Valley, insegna ai futuri e ai potenziali imprenditori come si fa imprese, come si trasforma un'idea in impresa, e questo lo fa in Silicon Valley. Abbiamo parlato con Marco Marinucci, che è il creatore, l'ideatore di Mind the Bridge, quali sono le tecnologie sulle quali investire, le tecnologie più interessanti sulle quali magari creare una startup che possa avere successo. Naturalmente, se si parte da un settore che è in espansione ed è in crescita, beh, l'idea ha una certa leva, e poi se uno ha una buona idea ed è capace può provare e può creare un'impresa in qualsiasi settore, ma come dicevo, sicuramente se lo si fa dove il terreno è più fertile, beh, è più facile che i fiori fioriscano. E questo è proprio il tema con cui abbiamo iniziato la conferenza, per dare un po' di aspettative di quali sono le aree, magari non solo a breve termine, ma anche sul periodo più lungo. Se tu pensi a un investimento di venture capital, di solito un fondo di venture capital ha una durata di 10 anni, no? Per cui i primi 5 anni li impegni a investire e gli altri 5 anni li impegni a cercare di disinvestire per avere dei ritorni. Quindi un po' con quella prospettiva, chi oggi fa investimento early stage, quindi iniziale, ma anche più avanti sulla catena del valore, devi cercare di in qualche modo prevedere su determini temporali che sono più o meno di quelle lunghezze. E questa è una delle difficoltà. È decisamente una difficoltà, e lì devo dire si fa veramente la differenza tra fondi che storicamente hanno avuto dei ritorni importanti per i propri investitori rispetto a tanti fondi che invece nel frattempo non sono riusciti a rinnovare la propria presenza sul mercato. Quali sono questi, diciamo, dal punto di vista proprio puramente di dati e di, in inglese si dice di gut feeling, un po' di dati che sono stati passati sono decisamente interessanti. Alcune di queste aree sono quelle abbastanza attese, per cui si è parlato in qualche modo di biotecnologie, come, diciamo, la parte di tecnologie oggi applicate al bio, quindi alla codificazione del DNA e altro, sta già producendo delle aree totalmente nuove che possono creare ritorni, quindi sostanzialmente aree di business che oggi ancora non esistono. Si è parlato del 3D printing, che comunque è un'attività che già da qualche anno si sta sviluppando, però dal punto di vista invece dei servizi intorno a un contesto in cui non serve più spostare gli oggetti, ancora è agli inizi. Si è parlato di educazione, questa è la parte secondo me interessante su cui ancora non ci sono state, se ne parla da molto, e questa rivoluzione proprio della tecnologia per l'educazione ancora non è arrivata, cioè sono stati fatti dei piccoli passi da formica, ma ancora, diciamo, il salto importante ancora deve arrivare, per cui questa è una delle tipiche situazioni in cui, diciamo, questa aspettativa continua a essere rimandata e continua a essere come parte, diciamo, dei canali su cui potenzialmente investire, perché ancora non è passata. C'è tutto il tema dei wearable devices, no? Questo che adesso ho è un esempio, domani ne presenteremo. Lo spiego io, visto che alla radio non si vede, è un braccialetto che ti misura il bioritmo della giornata, giusto? Sì, questo in realtà fa anche meno, nel senso che ti misura le ore di sonno che dormi e soprattutto che non dormi, sì. E il numero di passi, quindi insomma c'è un layer di software abbastanza semplice basato su un accelerometro che è all'interno di un braccialetto, quindi dal punto di vista proprio concettuale è molto semplice. Oggi devo dire che questi temi iniziano ad essere centrali per le masse. Di questi in Silicon Valley una persona su tre in qualche modo ci sta giocando, no? Io ho mia figlia di 7 anni, ha un braccialetto come questo e io vedo durante la giornata che tipo di attività sta facendo, no? In che modo si sta muovendo e rispetto ai propri obiettivi quanto... Oggi questo tipo di tecnologie sono finalmente arrivate alle masse. Quindi devo dire, non stiamo parlando dei prossimi 10 anni, stiamo parlando dell'anno prossimo, dei prossimi 2 anni. Quello su cui credo si vedrà molta innovazione è l'apertura di piattaforme per queste tecnologie, no? In cui il wearable device, in cui la maglia che hai, le calze che hai, un progetto che presenteremo domani, ha delle nanotecnologie dentro il tessuto delle calze che ti permettono alla fine di sapere come stai mettendo il tuo piede o entrambi i piedi, e con un braccialetto che è attaccato alla calza te lo spara in wireless sul tuo cellulare. Quindi sostanzialmente viene memorizzato tutti i movimenti che fai, non solo proprio nella posizione, ma anche nel momento in cui tu stai mettendo la modalità con cui tu stai appoggiando il piede, come piattaforma aperta. Quindi oggi questa è una piattaforma aperta su cui dozzine di sviluppatori stanno progettando dei verticali diversi, cioè come imparare a ballare il tango, come stai giocando a golf rispetto a Tiger Woods, come stai correndo, no? Quindi diciamo, una volta che questi dati vengono in qualche modo presi rispetto al wearable, a quello che ti stai indossando, le potenzialità poi di fare signal processing e di dare informazione sono ancora agli inizi, secondo me, e sarà uno dei vari pezzi su cui sarà interessante vedere le potenzialità del mercato. Se tu devi fare un confronto tra quello che sta accadendo in termini di investimenti in startup in Silicon Valley e nel resto del mondo, quindi non metterei a confronto Italia e Silicon Valley, ma Silicon Valley rispetto al resto del mondo, quali differenze vedi anche in termini di trend tecnologici? Allora, questi sono altri dati che sono a disposizione, li abbiamo presentati inizialmente alla conferenza perché ci sembrano veramente centrali, per avere dal punto di vista proprio fattuale un indicatore di quanto lontani siamo, no? In questa ebollizione oggi interessante del mondo di startup, però rispetto poi alla produzione di valore. La differenza più importante che si vedono non è tanto nella dimensione degli investimenti, che pure esistono e sono ancora... diciamo uno o due ordini di grandezza maggiori, ma soprattutto sulle aspettative di questi investimenti. Mi spiego meglio, oggi fare investimenti in startup in Italia è complicato se non esiste un exit strategy fruibile. Quindi sostanzialmente tu investi in una startup, però non hai possibilità poi di avere dei ritorni diretti da questo investimento. Questo è, diciamo, il gap oggi sostanziale che esiste, non dico tra Italia e Silicon Valley, ma tra Silicon Valley e il mondo in genere. Quindi questi sono alla fine, diciamo, un cambio, se vuoi, proprio di modus operandi del mondo delle imprese, del mondo intorno all'innovazione, che non dipende tanto dalle startup, dipende dall'altra parte del mercato. Quindi dipende dalla società che oggi avrebbero le potenzialità di acquisire innovazione, e in Silicon Valley lo fanno a livelli altissimi, per cui raccontavamo di alcuni dati, insomma, una società come Google, come Facebook, oggi Twitter, per dire, le società anche relativamente giovani dedicano una parte sostanziale del loro budget per acquisizione di società, magari 10, 15, 4 persone, e che sono in vita magari da 2 anni. Ecco, questo tipo di movimenti, quindi l'M&A, l'acquisizione, quello che viene chiamato acqui-hire, no? Acquisisco qualcuno sostanzialmente non tanto per il prodotto, ma per il talento che la squadra mi rappresenta. Questo secondo me è il pezzo che oggi fa la differenza sostanziale proprio nella costruzione di un ecosistema che è sostenibile, no? Per cui costruire startup o fare investimento alla fine ha un senso anche economico e diciamo, con termini temporali molto veloci e producendo valore. E questa è la voce del fondatore di Mindbridge, Marco Marinucci. Abbiamo parlato durante questo evento organizzato a Milano dalla Fondazione Mindbridge anche con il chairman della Fondazione, Alberto Onetti, partendo proprio dalla Fondazione, da cos'è e che cosa fa Mindbridge. Allora, la Fondazione è nata nel 2007 con l'obiettivo di creare un ponte culturale tra la mentalità del fare impresa Silicon Valley degli Stati Uniti e la mentalità di impresa italiana. Quindi eravamo nati nel 2007, nel lontano 2007, come business plan competition. Ai tempi in Italia non si parlava di startup, non si parlava di venture capital, noi abbiamo un po' introdotto questi temi e devo dire che fortunatamente oggi questi temi sono diventati linguaggio comune e forse sono stati diventando anche forse troppo di moda. E quindi come fondazione che si occupa di innovazione e di imprenditorialità abbiamo deciso di continuiamo ad evolvere anche noi e quindi ci siamo resi conto che quello che sappiamo fare è appunto educare l'imprenditorialità e quindi abbiamo lanciato un programma che si chiama Startup School che appunto voleva guidare persone che avevano in testa di avere un progetto di impresa a vedere se avevano le condizioni per poterlo farlo crescere e quindi sono 3 settimane a San Francisco. Abbiamo graduato più di 150 ragazzi negli ultimi 2 anni e adesso ci siamo resi conto che accanto a formare start-upper dobbiamo però ritornare a far pensare all'innovazione da un lato le imprese esistenti che sono il 99,999% del nostro sistema produttivo e dall'altro gli investitori che sono i 2 grandi temi che oggi sono assenti alla chiamata dell'innovazione. E quindi dall'anno prossimo lanceremo 2 programmi, uno dedicato, che si chiama programma di intrapreneurship, ritornare a pensare in modo innovativo per imprese esistenti e manager di vecchia generazione. In 1 settimana, più alcune parti in Italia prima e dopo, li porteremo un po' a ritornare a pensare in modo innovativo. Io credo che l'ondata imprenditoriale italiana sia fermata negli anni 70-80. E dall'altro abbiamo un programma che si chiama Angel Investing School, che è appunto dedicato a chi sta pensando di affrontare da investitore questo mondo, che è un mondo molto molto complicato, sia per chi lo fa e soprattutto per chi ci mette dentro dei soldi. Perché un'industria tradizionale dovrebbe occuparsi e preoccuparsi di interessarsi alle start-up, a questo fenomeno? Perché oggi l'abbiamo visto dallo speech di Roberts, di Singularity University, come tutto cambia e c'è un morphing continuo dei settori e dei modelli di business in qualcosa di nuovo e quindi chi non riesce a pensare in modo innovativo non ha possibilità di sopravvivenza purtroppo. Quello che è successo in Italia è che noi abbiamo negli anni 70 abbiamo creato tante imprese e oggi sono tutte imprese che sono posizionate su settori maturi salvo alcune eccezioni. Perché? Perché non sono state capaci di rinnovarsi. Quindi noi siamo un paese che si è un po' seduto sull'esistente e non è più stato in grado di creare la nuova ondata, che è quello dove la Silicon Valley è fortissima. Silicon Valley è l'unico distretto industriale che abbiamo inventato noi, che ha fatto le ultime 7-8 ondate di innovazione al mondo e probabilmente farà anche la 9ª e la 10ª. Abbiamo inventato noi italiani? Il distretto industriale è un concetto di localizzazione, capacità di innovazione, produttiva, geolocalizzata. Sì, sì, in questo senso. L'abbiamo inventato, noi l'abbiamo dimostrato che siamo stati capaci di farlo negli anni 70-80, però questi distretti sono invecchiati. La Silicon Valley è un distretto che non invecchia. C'è il rischio che tra le start-up si pensi e ci si focalizzi quasi esclusivamente su alcuni mega trend che sono ad esempio il digitale, il web e si lasci, ci si dimentichi di tutta una parte industriale in cui noi ancora siamo forti, cioè fatichiamo a rinnovare e a cambiare il mondo in cui ancora oggi rappresentiamo qualche cosa nel mondo, distraendoci forse dal web, dal digital. Ma da un lato il grande successo che le app, il digitale, il web ha è legato al fatto che sono mondi dove si può investire con basso quantità di capitale, quindi questo porta una forte popolarità numerica, ci sono tante cose perché è facile provarci. Da un lato quello che sta succedendo in Silicon Valley è che questo settore non è più tanto hot, non è più tanto di moda. Oggi si sta andando molto di più verso settori dove tanto il digitale si mischia e si coniuga con le cose hard, quindi come aziende che stiamo seguendo sono molto interessanti, c'è un'azienda che fa sensori per calze. Quindi dove si riescono a recuperare appunto da come poggia il piede, si recuperano tutta una serie di informazioni, quindi queste sono le nuove frontiere. Il problema dell'Italia è che poi noi ci innamoriamo delle cose 5 anni dopo, quindi quando iniziamo a farle l'onda è già passata. A proposito di tecnologie, su che cosa si sta investendo, quali sono a vostro giudizio i trend più interessanti? È una risposta più difficile, probabilmente dandola si potrebbe soltanto fare dei danni. Io credo che oggi sia possibile innovare tutto e le grandi innovazioni sono grandi industrie esistenti che non sono state capaci di rinnovare o rimettersi al passo coi tempi, quindi non c'è da andare a cercare il nuovo, c'è da andare a vedere il nuovo nell'esistente. E il problema e il dramma di chi è leader di mercato è che continuando a fare le cose in un certo modo non riesce a concepire che si può farlo in modo diverso. Penso che un esempio molto molto giornalistico, un po' inaccurato, ma che dà bene l'idea, è un'azienda come Tesla, che ha fatto un concept di auto totalmente elettrica, può essere in qualche misura raggiunta dai grandi colossi automobilistici? Due punti interrogativi, perché loro non hanno probabilmente quel DNA dentro e per portarselo in casa hanno bisogno di troppo troppo troppo tempo. Non so se Tesla sarà la nuova Ford del futuro, però probabilmente non lo sarà Volkswagen, non lo sarà Toyota, non lo sarà uno dei grandi leader esistenti. Concludiamo questa puntata come tutte le settimane con alcune anticipazioni su quello che troveremo su Nova domani assieme al Sole 24 Ore. Nova guidato da Luca De Biase, che saluto, bentornata 2024 Luca. Ciao a tutti. Allora, oltre alla copertina che avete dedicato ad un'intervista a Norman Longworth sulla città che impara, che cos'altro troviamo su Nova? Ah guarda, c'è innanzitutto il rettore di Padova che fa un commento sul mancato finanziamento alla ricerca nelle università migliori. Tu sai che c'è stato un lungo lavoro di valutazione della qualità della ricerca nelle università italiane che, sebbene negli ultimi 4 anni hanno perso 1 miliardo di euro di finanziamento su 7 complessivi dello Stato, dovevano perlomeno in parte essere ricompensate da un finanziamento mirato sulle università che fanno meglio la ricerca. Questo ha avuto molte controversie, ma comunque era una logica. E il fatto è che il governo non è riuscito a attribuire questo finanziamento maggiorato alle università che fanno meglio la ricerca secondo le valutazioni dell'ANVUR. Il rettore di Padova, che è l'università che ha raggiunto i migliori risultati in quella valutazione, segnala come questo sia illogico, controproducente e simbolicamente sbagliato. Certo. Ci sono molti altri argomenti su Nova. Ti volevo segnalare una storia che ha scritto Alessia Maccaferri sul Museo del Futuro, grande tema italiano, perché è evidente che noi siamo la terra dei del musei, turismo, certo, e dei musei, e che dobbiamo imparare a raccontarli in modo contemporaneo. Lì c'è una serie di esempi che soprattutto connettono quello che viene messo in mostra con il digitale in 3D, usando tecnologie come il Kinect che consentono di interagire con gli oggetti esposti e come altre tecnologie che raccolgono e trasformano in 3D molto facilmente gli oggetti, per cui si tratta un po' di una innovazione che sta all'interno di uno dei mondi nei quali l'Italia è forte. Sai, si dice tanto spesso che gli Stati Uniti fanno innovazione anche perché spendono la metà delle spese militari del mondo e quindi hanno una grande capacità di investire in ricerca per le spese militari. Beh, gli italiani potrebbero essere, visto che si dice che abbiamo oltre la metà dei beni culturali del mondo, con una strana statistica ma comunque molto ripetuta, insomma potremmo essere quelli che investono oltre la metà degli investimenti in ricerca del mondo per quanto riguarda la salvaguardia e la manutenzione dei beni culturali. Esatto. Senti, di questi esempi che voi fate su Nova, ne esistono già o si tratta di studi, proposte, idee, progetti? Sono studi, proposte, idee, progetti. Chiarissimo. Grazie Luca, a presto e buon lavoro. Ciao, grazie. È tutto per questa puntata, grazie come sempre per la vostra attenzione, grazie per aver scaricato questa versione podcast del nostro programma. Vi consigliamo di suggerire ai vostri amici, ai vostri parenti, ai politici locali, ne abbiamo bisogno di fare alfabetizzazione a chi si occupa delle scelte del paese. E poi approfitto anche per dire, visto che in alcune amministrazioni locali il prossimo anno si va alle elezioni, Beh, sicuramente tutti i temi di cui parliamo a 2024 dovrebbero diventare anche temi della campagna elettorale. E visto che noi siamo cittadini e possiamo, soprattutto a livello locale, interagire con la pubblica amministrazione andando agli incontri, suggerendo, sollecitando la politica locale, beh, sicuramente questo è uno spunto molto interessante, molto importante. Noi ci risentiamo la prossima settimana, il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, grazie anche ad Anita Panizza per averci aiutato in redazione, a tutti i nostri tecnici appuntamento al prossimo weekend. 2024. 2024. 2024. 31 seconds.